Ciao, ma il tuo microfono è acceso? Il mio microfono è acceso. Anche il mio. Buonasera. Nona puntata, l'Accademia della Brusca è ancora con voi anche sotto le feste di Natale, sotto proprio. schiacciate dal peso delle feste di Natale, di tutto quello che ne conseguirà. Ai ai ai, siamo qui con questa nona puntata per farvi il pillolone. Tiè. O suppostone. Diciamola tutta. Non abbiamo avuto tempo di preparare una puntata decente e allora tagliuzziamo quella. E abbiamo pensato, sì, di finire questo piccolissimo e primissimo corso introduttivo alla linguistica e tutto quello che è con questo mix, questa carrellata di tutto quello che è stato fatto. E perché in realtà da ogni puntata ci avanzava qualche pezzo musicale, qualche perla, qualche spot, sì, qualche piccolo argomentino, e quindi abbiamo detto perché non fare il pillolone che riassume un po' tutto e ci fa sentire le cose rimaste in coda. Infatti, quindi è quello che genio. Faremo. Ammazza che paraculo. Insomma, siamo un po' secchione, ci piace fare tutti questi pipponi di linguistica, insomma ci piace raccontare quello che sappiamo, che abbiamo studiato, che è anche il nostro lavoro, ma al tempo stesso ci ricordiamo dei bei tempi universitari andati quando per fare gli esami si utilizzavano un po' di escamotage. Scuse, sì, ma come no? Ho studiato tutto. Sì, sicuro. bene. Allora, grande richiesta, perché io vedo qui nella nostra posta ci sono dei commenti anche divertenti, volendo. E uno consiste in: vi prego, fateci sentire Art Attack per bambini di Coccio. Siccome io purtroppo non ne ho trovato, l'ho letta soltanto poco fa e non ho trovato altri bambini di Coccio, riproponiamo lo stesso. Esatto, punto, anche okay? Memory dell'incidente della settimana tanto, scorsa, ecco. Dove a metà puntata, forse anche prima, boh, è successo qualcosa. Sì, è successo un qualcosone, un gran casino in realtà. UFO, gli alieni. Spero che dal podcast un pochino, nel podcast ci sia un po' di linearità, non lo so perché. Fatecelo sapere. Ho sferruzzato qua e là e ho incollato. Anche perché potete immaginare quale fosse il contenuto della puntata quando ci siamo accorte che era caduta la connessione, quindi non eravamo più in onda. Sempre le Madonne. Esatto, d'altronde cosa volete? Siamo due grazie. Si ripropongono. Allora quindi facciamo ripartire i bambini di Coccio, via. Greg con Art Attack per bambini di Coccio. Che meraviglia. Che cosa insegniamo oggi? O cercheremo di insegnare oggi, se ce la facciamo a questi bambini di Coccio, a piegare un foglio in due. Come si piega un foglio in due? Non lo chiedo a voi, era una domanda retorica, perché lo so che voi siete di Coccio. Ve lo insegno io. Si prende un foglio di questi modello A4, per esempio, uno, non di più, uno. L'altro lo piegheremo dopo, semmai, no? Bambini di Coccio! Si prende il foglio, si curva e si fanno combaciare i lati, gli angoli, così. Poi si tira e poi con la mano si appiattisce e così avremo il foglio piegato in due. Capito? È piegato in due, lo vedete che è differente? Questo no e questo sì, bambini di Coccio! Che cosa insegniamo oggi? O cercheremo di insegnare. Ci era ripartito il file. Siamo un po' di Coccio anche noi anche in realtà noi. A questo periodo. Vabbè, vi assicuriamo che da gennaio andrà un po' meglio. Un po' meglio, pochino, esatto. Pochino, non troppo. Non troppo. Allora, prima di perdere l'attenzione per le cose veramente importanti, esatto, ci va di mostrare questo. Fallo tu che sei bravissima. Ve lo mostriamo verbalmente dalla nostra vocina. Wombat Logo Contest. Disegna il logo per Radio Wombat. Leggiamo un po' questo che cos'è. È. Questo è il nostro piccolo bando per diventare i prossimi disegnatori del logo di Radio Wombat e del nostro amato animaletto, tutto bello puccioso. A Firenze mancava una radio, e questo lo sanno anche i sassi. Mancava una radio che non fosse commerciale, servile, monotona, annoiata, lavorativa e lobbistica. Mancava una radio che risuonasse dai sobborghi, dai nostri sobborghi, quelli che viviamo e coloriamo ogni giorno con le 100 sfumature dell'autogestione. Beh, ci mancava finora. Avete mai visto un wombat? Il wombat è un animale buffo, combattivo e sornione al tempo stesso. Mannaggia questo font che ha le A uguali alle O. Sì, infatti la A è bella dritta come la normale. Vi faremo anche... C'è un pallino con uno sbifferino e la O. Esatto, guardate, quando lo troverete in giro per Firenze, questo logo ve ne accorgerete. Questo logo, scusate, questo piccolo contest. Beh, a questo punto io lo metterò. E dicevamo, la nostra radio porta il suo nome e il suo muso, e forse ne rispecchia anche il carattere. La Radio Wombat vi racconterà la nostra musica, le nostre notizie, la nostra sottocontrocultura, tutto, e lo farà in maniera autogestita, non commerciale, appassionata, come le cose più belle. A Radio Wombat però ora manca un logo. Tutte le modalità del contest, il come, il dove e il perché, su wombat.noblogs.org, che è il nostro sito. Sbrigatevi però, perché il bando scade il 22 febbraio 2017 e non è sponsorizzato dalla Lotteria Italia, ok? E io adesso lo rileggo, però con la O al posto della A e la A al posto della O. O Firenze, Moncovo, una radia. Una radio? Questo lo Anzi, sanno. Anzi, al contrario però. Ah, LBUIP... Esoc, Emoc. Tutto questo per temporeggiare sulla puntata, ma no. Come perdere mezz'ora. Bene, andiamo avanti. Voi. Veloci, veloci, veloci, veloci, perché in realtà ci sono tantissime cose da proporre. Esatto. Vogliamo partire dalla puntata della settimana scorsa, che perlomeno non è stata sentita in diretta? Sì, cosa facciamo rivedere? Allora, intanto... Ciao! Appunto, ci riattacchiamo a questo... Io ormai aspiro alla TV. D'altronde. Su, via. Siamo veramente... Vedrete dove arriveremo di questo passo, nel fosso. Sì, infatti. E, dopo Art Attack per bambini di Coccio, perché Art Attack per bambini di Coccio? Perché era una, possiamo dire, uno scherzetto, una cosa un po' ilare sull'acquisizione del linguaggio e sullo studio che è stato fatto sui cosiddetti feral child, quindi su tutti i bambini che per appunto questioni sociali legate a maltrattamenti e insomma episodi piuttosto spiacevoli di questo tipo sono stati, diciamo, privati di tutti quegli stimoli che servono per lo sviluppo autonomo e sano, se così vogliamo dire, di una lingua. E quindi noi, un po' scherzando con Greg, ci siamo ricollegati a questa cosa. Però la settimana scorsa abbiamo cercato, perlomeno, di fare una puntata che spiegasse proprio con questi esempi, quindi Ginny, la bambina americana ritrovata negli scantinati, in uno scantinato a Los Angeles nel 1977, una ragazza di 13 anni che non parlava, abbaiava solamente, perché appunto era stata vittima di maltrattamenti, di abusi e di conseguenza aveva vissuto tutta la sua vita all'interno di questo scantinato, è stata presa come esempio da un council americano, ora non ricordo quale fosse di preciso, per cercare di comprendere quale fosse poi il meccanismo che poteva scattare quell'automatismo, quella scintilla che determina in tutti noi l'acquisizione della nostra lingua madre e anche di tutte le altre lingue. Parliamo di lingua in generale, perché poi la lingua madre è un fattore ambientale, non è propriamente... Non potevi dirlo meglio. Ecco. Poi abbiamo parlato del ragazzo... Il tuo? Victor! Che mi ricorda... Frau Luca. Sì, anche lui ha vissuto questa sfigatissima situazione, per cui è stato trovato da grande ormai, quindi dopo il periodo critico, e non ha mai imparato se non ad associare parole, immagine, eccetera, eccetera. Ma questo sono sicura compaia poi anche nel podcast, quindi non Quindi questa era la nostra carrellata di quello che potrete trovare nel podcast relativo alla puntata 8, perché questa è la 9. Yes. Però... A noi, visto che ci piace fare i pozzi di scienza, No, ovviamente scherziamo. Siccome ci piace i pozzi, però, soprattutto divagare. Sì. Vi abbiamo portato un paio di letturine alla faccia di quelle che non si erano preparate la puntata. Beh, diciamo che queste due personaggione dicono le cose così bene, non aveva senso preparare una puntata. Esatto. A questo punto si legge le sì. cose scritte da loro. Vi leggiamo qualche estratto. Un po', allora, quello che vi vorrei leggere io è, riguarda sempre il tema dell'acquisizione del linguaggio, ma soprattutto il fatto dell'esposizione, cioè quanto i bambini, essendo esposti a un linguaggio, dopo aver appunto appreso una lingua e quindi aver fatto proprie tutte le funzioni, diciamo, linguistiche, grammaticali, lessicali, sintattiche, riescono poi anche ad elaborare le informazioni che ricevono. È una cosa molto carina. Io a questo punto manderei prima un pezzo per non chiacchierare troppo. Sì. Che cosa? A sorpresa. Posso allora, vediamo un po'. No. Io mi volevo far ispirare dal titolo del tuo, però. Ma l'estratto del di cui vi andrò a leggere dopo ha un titolo che è forse stato Gheddafi, per quindi cui... Ce l'abbiamo, sì, quasi. Ma certo che ce l'abbiamo. Ma che sciocca. Sciocchina. Ecco. E non è quello della volta scorsa. Cercheremo di imparare come fanno per parlare tutti gli parlamentari. Come fa Umberto Bossi? L'avevo duro. E la Russa? La Fiamma. E Maroni? La Iervolino. Io non mi muovo. E Tremonti? E la Brambilla? Rosa, rosa e rosa. E il Berlusconi? E il Berlusconi, e Berlusconi come fa? Se mi consente se ne va. Si dice a mille denti, con i capelli lenti, che poco esso mangia, se non scoppia la pancia. Però sugli scoglioni come fa sto Berlusconi? E il Berlusconi come fa? Se mi consente se ne va. Si arrabbia e dopo strilla, sorseggia la brambilla e mezzo indondolito se ne va. Guardo sui giornali, non c'è scritto niente, sembra che il problema non importi alla gente. Questo signore è stonatissimo. Non sappiamo da dove viene, però è un pezzo questo che si collega appunto al titolo dell'estratto. Beh, po' amici. Amiconi. L'amicizia conta, ragazzi. Amiconi. Perché del povero compianto Gheddafi. Allora, il titolino è Forse è stato Gheddafi. Ci rifacciamo a quello che abbiamo detto prima, di quanto i bambini siano in grado di assorbire quello che sentono nell'ambiente circostante, farlo proprio e inserirlo anche in un contesto che va ben oltre la lingua, proprio in un contesto semantico, per cui è una cosa carina. Questo estratto viene da un libro che si chiama Il fascino dell'ordinario, psicologia dei piccoli accadimenti quotidiani, di Ada Fonzi, che è una, o è stata, non ricordo, una professoressa dell'Università di Firenze, la facoltà di psicologia. Qui a Firenze si dice psicologia. Psicologia. Allora, ovviamente leggo soltanto una parte perché il paragrafo... Eh no, ora fino alle 8:30 devi svoltare la puntata. Mi leggo tutto il libro. Con descrizione dell'immagine. Allora, arriva il padre di Luca, questo bambino, che lavora alle notizie di cronaca di un giornale cittadino. La conversazione si anima ed ognuno di noi cerca di avere in anteprima qualche notizia sui fatti del giorno. Il padre soddisfa la curiosità e ci parla di un grave incidente occorso qualche ora prima alla periferia. Un grosso boato e subito dopo alte fiamme hanno distrutto l'intero caseggiato, dove l'impianto di riscaldamento a metano era stato costruito senza gli opportuni dispositivi di sicurezza. Questo è un frammento dell'86. L'indignazione generale e immediatamente si apre un'accesa discussione sui problemi della speculazione edilizia e sulle relative connivenze politiche. Luca, il bambino, a questo punto prende decisamente partito per il mondo degli adulti, abbandona per terra il suo inerte robot, si appoggia alle ginocchia del padre e beve letteralmente le sue parole e la sua indignazione. Ma non si limita a questo, vuole anche lui dare il suo piccolo contributo alla spiegazione di quello che certamente gli appare come un enigma. Si agita per un po' e finalmente, quando le voci ormai si sono placate e si verifica quell'attimo di silenzio che prelude al passaggio a più gradevoli conversari, dice tutto d'un fiato: «Forse è stato Gheddafi!» Il risolino dei genitori non riesce a mascherare il loro imbarazzo. Quanto a me, l'uscita di Luca mi ha procurato un profondo senso di disagio e di impotenza. Non credo di avere alcuna propensione per il fantasioso colonnello biblico e libico. Lapsus freudiano. D'altronde era ghindato come il vitello dai piedi d'oro, praticamente, per cui, o di balsa. Ma la sicurezza con la quale il bambino lo demonizzava, attribuendogli la causa di ogni iniquità, ha suonato per me come un campanello d'allarme. Quindi, questo piccolo frammento in Forse è stato Gheddafi, il colonnello biblico, questa può tornare cara alla nostra vecchia rubrica, ci fa capire come i bambini esposti al mondo degli adulti, immersi nel mondo degli adulti, siano poi in grado di rielaborare informazioni che li circondano, quindi dalla televisione, dal parlato quotidiano, e dal vissuto, per poi rielaborarlo in una maniera semanticamente corretta, nel senso, questo bambino stava ascoltando degli adulti che parlavano di problemi della società, di problemi della città, e lui ha fatto un collegamento ben chiaro, probabilmente conscio anche, non so, dei telegiornali, delle chiacchierate in famiglia che lui sentiva magari di sbieco, però è riuscito a inserire un nome altrettanto difficile come può essere Gheddafi per un bambino di 5 anni, a inserirlo in un contesto, come possiamo dire, un contesto di dialogo. Di dialogo concreto. Per cui... è spontaneo soprattutto. Dalla puntata scorsa che parlavamo dei bambini a cui è stata negata la facoltà di apprendere una lingua, appunto tramite la base, l'input iniziale e primario che è lo stimolo, vediamo che ci sono bambini, i bambini poi vanno ben oltre lo stimolo, cioè diventano praticamente delle spugne che sono in grado di assorbire qualsiasi cosa. Fine 18 anni, quando diventeranno spugne, perché andranno al pub tutte le sere a ubriacarsi con gli amici, spugne, i nostri cari figlioli. Spugne. Altre spugne. Io per l'appunto ho buttato, proprio lanciato i miei occhi blu, perché voi non lo sapete, ma io ho gli occhi blu. Hai capito? Notodate. Hai capito? Notodate dagli occhi blu. Ecco. Sta buono, vai, sta buono. Butto i miei occhioni blu su l'introduzione di un capitolo di un libro fantastico che sta sempre sul mio comodino, insieme alla pasticca per la tiroide e alla crema per le vene varicose. E la crema per le mani, la lima per le unghie. Chiaramente. Cosa c'ho? Io ho l'ibuprofene perché soffro di mal di testa. Perfetto. Un 3x2 per cui. Sì, sì. Che vecchie, maledette. Mazzo. Insomma, chi ha scritto questo fantastico libro che agghinda il mio comodino? Maria Teresa Guasti. Altro non è che il suo mitico Acquisizione del linguaggio. Oh là là! E una semplice introduzione, chiaramente, perché penso che non sia sufficiente questo tomone. Questo libro è un 306 pagine, quindi la chiama introduzione, pensa. È anche scritto molto in piccolino, con un'interriga Mazza. Tipo pari a 0,002. Immagini nemmeno a pagarle. Vabbè, no. Però per l'appunto ho letto in quel momento in cui tu parlavi di questo fantastico argomento. Vi ricordate come avete imparato a parlare? Probabilmente no. No. Se lo chiedete ai vostri genitori, potrebbero dirvi che l'avete imparato imitandoli o che ve l'hanno insegnato loro. Ho insegnato io a parlare. Cazzata, tremenda. I baudi, l'ho inventato io. Probabilmente concorderete che nessuno vi ha insegnato a parlare. E infatti, poi vabbè, ora non è questo il momento di leggervi questo capitolo. Però c'è una cosa molto interessante. Lei chiaramente arriva, uno dei primi nodi sarà quello della... delle frasi ambigue, che sono quelle frasi che possono avere due significati. Quello è uno degli esempi che fa per testimoniare che chi ha veramente acquisito una lingua è in grado di discriminare una frase ambigua, mentre chi invece non l'ha acquisita realmente si troverà davanti a questa frase e ne vedrà soltanto uno dei due significati o non percepirà quello che poi viene sottointeso. Sì. E, ora, questa frase qui non mi piace, però ce ne tantissime. Ti viene in mente una frase ambigua tipo... Aspetta, questa non mi piace per niente. La vecchia porta la sbarra. La vecchia porta la sbarra. Esatto. Che è solo una differenza di intonazione, esatto, ancor più che di termini di sé. Sì, è solo l'intonazione che la modifica, ma se la vedi scritta praticamente non hai nessun referente, nessun suggerimento per capire che è una frase... ha un significato e o un altro. Quindi della vecchia che porta una sbarra e la vecchia porta, virgola, la sbarra, come azione o addirittura anche come due... La porta è la porta che, esatto, scricchiola. Esatto. Toc toc. Oppure come verbo, voce del verbo portare, per cui chi non ha appreso, diciamo... il linguaggio, comunque chi non ha... Chi non l'ha proprio acquisito, nel vero senso del termine. Non è in grado. Non è in grado. Uno dei puntini che si fanno capire. Per dire, esatto. Hai acquisito sì o no il linguaggio? Sì, noi a quanto pare sì. Però questo esempio in realtà è anche uno di quelli un po' più ostici, perché quando lo vedi scritto, sì, intanto dici... Ma perché infatti mi è venuta in mente quella più stupida. Questo significa non preparare una puntata, perché poi ti viene in mente la cosa più banale, quella che in realtà mettono nei testi, proprio perché, esatto, è soltanto vedendo la scritta, esatto, che ti rendi conto di... che forse ti rendi conto di questa ambiguità, però ce ne sono tantissime anche molto più belle, ma tra un po' mi verranno, non vi preoccupate. Interromperemo e... Ah, eccola, sì, mi è venuta sicuro in mente. Per l'appunto, a questo punto mettiamo un pezzo musicale, magari mi si risveglia un po' la memoria. Ma sì, dai, cosa mettiamo? Non lo so, sì, mi sento un po'... Con questi occhi blu sarò anche bionda. Allora, e poi avrò ci colleghiamo le braccia ad angolo retto. A quello che dicevamo la settimana scorsa. I piedi sempre in punta, anche col pigiama. Magari che... il mio fidanzato ha i capelli di plastica. Oddio. ho avuto in mente. Mi sono immaginato una scena terribile. Chissà. Forse quindi, se non avete indovinato... Se non l'avete indovinato, capirete immediatamente. Pezzo trash della giornata. Ci siamo. 3, 2, 1, partiti. Hi, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair. Sentite gli anni 90. Ci sono tutti. Oh, questa è quella che 96 con la probabilmente. Remix con la cassa dritta, ragazzi, godete però. Oh mamma. We'll be right back. male davanti a una roba del genere. Cioè, abbiamo programmi bellissimi come Slick Chick, come 8 Hertz. Noi dobbiamo sputtanare completamente il palinsesto radiofonico di Wombat. Il prog sul prog. Persino il prog. Poi arriviamo si noi. Vergogna di noi. Ma, cioè, figuratevi che mattonazzo salterebbe fuori se vi facessimo tutte queste... queste elucubrazioni linguistiche e poi vi mettessimo anche... Lo sai che io oggi non lo so dire. Elucubrazione. Come vedete siamo molto molto stanche, molto provate. Io sono a pezzi. E quindi... Abbiamo anche un'altra cosa da aggiungere. Nenia mi guarda con il sopracciglio alzato, lo muove... È un tic in realtà per l'isteria natalizia. No, volevo solo dire, fare un po' la saputella, ecco. La sapientona. Le api ballano. Lo sapevate? Sapevatelo. Le api ballano e detto questo se mi devi subito mettere un pezzo a bomba perché non so più cosa dire. Sul fatto che le api ballano? Beh, lo spieghiamo. Devi mettermi via quel pezzaccio di merda di prima. Aiuto. No, tutto questo per dire che sì, realmente l'argomento sarà questo, però ci è venuto in mente un pezzo troppo carino che probabilmente alcuni hanno già indovinato, perché non è tanto difficile associare trash, noi due e le api. E le api, cosa e salta quindi, fuori? Pronti? Lo vai! Dall'inizio ce lo piazzi così. No, dall'inizio. Benissimo, via! Via! Si sveglia il mondo, lo accarezza il sole. Si sveglia la pemaia dentro un fiore. Colpo di stato di lunedì e oggi secondo me non ci siamo. Piccia le sue ali trasparenti. Vola, vola, vola, vola, vola la pemaia. Siamo impazzite del tutto. Perché la pemaia? Perché non ci sono soltanto gli esseri umani a parlare. Uè, testine! Uè, pirla! Hai capito? Non ci sono soltanto gli esseri umani a parlare, ma i linguisti hanno codificato, dopo essersi rotti le palle per anni con la trascrizione IPA, con i diagrammi ad albero, con tutte queste cose terribili della glottologia e della linguistica generativa, hanno detto, ma perché non studiamo anche gli animali? Perché non studiamo anche i sistemi di comunicazione propri di alcuni animali? E ne hanno codificati, ovviamente. Non è che hanno studiato tutti gli animali, ovviamente, però hanno... Secondo me sì, hanno sì, solo messo delle informazioni alla fine nei risultati. Esatto, perché poi che cosa hanno studiato? Uccelli, le scimmie, i primati non umani, che loro sì, non chiamano scimmie, infatti, ma chiamano primati non umani, quindi lo scimpanzé bonobo in genere, e le api. Pensa. E le api. Poverine, ma soprattutto poverini, quelli che si sono dovuti mettere lì a fare il dottorato sulla danza delle api. Perché uno dice, vabbè, filmo le api, trascrivo la vibrazione. Ma questi si sono messi a guardare in che posizione stava il sole, in base ai movimenti hanno dedotto, chissà, perché poi io mi fido ciecamente di quello che trovo scritto sulla maggior parte dei libri che compro. Questo, insomma, comunque è il libro della Maria Teresa Guasti, per cui ci possiamo fidare, ma sono sono studi in realtà condotti da un certo von Frisch, tedesco, tra il 1650 e 1967. Cioè, tu pensa, l'Europa era nel completo delirio, perché ancora si doveva rimettere in piedi seriamente da due guerre devastanti e tutto quello che c'è stato dopo. E questo si è messo a studiare le api. Von Frisch si è messo a studiare le api. E cosa ha capito? Che i sistemi di comunicazione animale permettono di trasmettere generalmente informazioni di bisogni immediati, quindi di pericolo oppure di cibo. Io intanto faccio la mappa concettuale. Esatto, su un giornale abbandonato qua sulla scrivania. E sono relativi quindi questi segnali, questo linguaggio animale, all'ambiente circostante. Esiste però un'eccezione che appunto è rappresentata dalla danza delle api, che viene prodotta per informare le api di uno stesso sciame della presenza di nettare. E, von Frisch ha identificato due tipi di danza, una circolare, dove le api informano informano le altre che hanno trovato cibo, e la danza dell'addome, che è fatta, fate conto, tipo a forma di infinito, di otto, dove le api esploratrici informano che la sorgente di cibo è lontana, per cui due informazioni decisamente importanti. Non usano il linguaggio verbale, ovviamente, non usano nemmeno un linguaggio di segni, però questa loro danza, per le articolazioni che ha, viene definita come linguaggio. È un modo per comunicare, cioè esatto. Quel linguaggio che intendiamo come metodologia per comunicare X esigenze, esatto. O stati d'animo. E pensa un po' però che in realtà non finisce qua, perché la danza delle api permette di fare riferimento anche a delle astrazioni o comunque a delle cosiddette periferiche, no? di informazioni nel senso che per esempio le api possono indicare la ricchezza della fonte di cibo mediante la velocità e la durata della danza. E questa danza non ha però caratteristiche di discretezza. Che vuol dire, signorina Nenia? Io penso che siano delle grandi maleducate, invadenti. Non sono discrete. Perché si sa che le api sono veramente invadenti. Sono davvero, adesso ve lo spieghiamo. Non hanno polso, non hanno delicatezza. E la prima è vera, non hanno polso, questa non è vera. Non hanno. Forse anche la seconda. Comunque le caratteristiche di discretezza, ricorsività e quant'altro del linguaggio ve le spiegheremo nel 2017, perché ora non è ancora arrivato il tempo. Io ce l'ho già pronta, quella ce l'ho pronta. Oggi no, ma la prossima ho già tutto pronto, già fino a febbraio. Già tutto. E quindi anche le api, nella loro maniera, parlano, cioè quanto più è veloce il loro movimento, tanto più distante è la fonte di nettare. Quindi si tratta di un sistema di comunicazione continuo, questo che usano le api, e viene riproposto sempre. E quindi la forma è ricorsiva, è una forma ricorsiva di linguaggio. Bene. Bene, cosa ci vuoi far ascoltare quest'oggi? Dopo questa parentesi sulle lingue delle api, presentiamo questi due libri, diciamo per bene chi sono, dove li possono trovare, dai. Edizioni, citiamo le fonti. Citiamo le fonti con... Una fionda. Ma è meglio una fionda che una pistola, no? Un mattone. E i libri, indo ce l'hai? I libri? Ah, ma ce l'ho tutti qua ce l'ho! E che ce fai con tutta sta roba? Ce lo so io! Ce lo sa Pierino. L'avevate scordato il nostro amico Pierino. Il nostro amicone Pierino. Non si scorda mai. Ma diciamo alle nostre ascoltatori che più tardi ci sarà un teaser sul 2017, una nuova rubrica, ragazzi, sì, sentirete sì. Che sigla. Dal 2017 diventeremo serie, efficienti, sì, brave, impeccabili. Serie deficienti, basta ma... Basta cazzeggio. Questo, diciamo, queste prime 9 puntate sono servite per presentarci, per conoscerci, per riscaldarci un pochino. Ma vedrete cosa vi troveremo nel 2017. Allora, lo stralcio che vi ho letto io prima fa parte di una raccolta di Ada Fonzi, come vi dicevo, Il fascino dell'ordinario, psicologia dei piccoli accadimenti quotidiani. È un libro molto bellino, scritto da questa docente di psicologia, nonché anche direttrice della rivista Psicologia Contemporanea, che aveva una rubrica all'interno di questa rivista che si chiamava semplicemente Parliamone. Parliamone. Non è che è stata lì a dire, è un po' come noi. Parliamone, dai. Parliamone. Anche lei, che si parla oggi? Parliamone. E lei cosa ha fatto? Non aveva un programma prestabilito in mente, come noi oggi, ma aveva semplicemente bisogno di parlare e fare psicologia in una maniera diversa, senza servirsi dell'armamentario cosiddetto scientifico, per cui ha collazionato, proprio in senso filologico, una serie di considerazioni, una serie di pensieri, di piccoli racconti della sua vita, della vita degli amici suoi, e di chi poteva conoscere, che avevano sia al contempo un'interpretazione psicologica, anche linguistica, come abbiamo visto prima, perché comunque linguistica e psicologia sono piuttosto correlate, e al tempo stesso raccontavano come questi avvenimenti, come questi casi, diciamo, questi cluster psicologici potessero poi essere presenti anche nella vita di tutti i giorni. Il libro Il fascino dell'ordinario è della Giunti, collana Saggi Giunti, l'edizione che ho io è del 99, ma so che l'hanno ristampato. E se avete bisogno andate, visto che è la residenza, a comprare, non Giunti, rompete le palle, bolognese. Andate là. Esiste internet, cercatelo lì. Insomma, bastano 2 mezze informazioni tra per trovarlo. Mi sa che è un'informazione che non dovrei dare, ma è piratato anche, nel senso bene, che in PDF lo trovate. Per meglio, cui... bisogna dirlo. Esatto, non stampatelo però, mi raccomando. Leggetelo su un tablet o qualcosa, sì. Non stampatelo. Proiettatelo sul muro di casa. Esatto, bellissimo. Wow. Ho capito cosa posso fare con le cose delle diapositive di mio padre. Ah, bello. Per Natale. Vedi, perfetto. Non sapevi proprio che cazzo fare questo Natale. Hai deciso, anziché preparare le puntate di gennaio, hai deciso di leggerti QR Pass proiettato sono tutte sul muro. E invece la nostra Maria Teresina che ci dice... Maria Teresina... No, si chiama Maria Teresa Guasti. Il titolo, L'acquisizione del linguaggio, un'introduzione. Copertina meravigliosa, io ci tengo anche a raccontare un po' come la copertina, c'è questo grande calamitone a U, un po' a ferro di cavallo, con tutte le lettere che vengono risucchiate da questo calamitone. È un po' un grande classico questa, secondo me è stata usata più volte per parlare del linguaggio. Vabbè. Raffaello Cortina editore, e la Guasti chi è? È insegna linguistica a Milano, alla Bicocca, alla pensa. Ma non sono troppo snob alla Bicocca, la psicologia, sì, della Bicocca, e ha scritto una quantità di libri, tipo 20 libri sull'acquisizione del linguaggio, il linguaggio, eccetera, eccetera. Non ve li sto elencare tutti perché davvero c'è da diventare matti, però... Questo è veramente un ottimo libro. Anche per chi volesse capire tutto, davvero tutto il mondo della linguistica in sole, lo so, non sembrano poche, ma in realtà davvero. No, in è sole vero 300 che pagine. Realmente un'introduzione, perché ora si fa per ridere, per scherzare, però un libro di effettive 286 pagine, levando i plus, 286 pagine appunto, dove lei... Fai conto, inizia con la descrizione di che cos'è il linguaggio, poi fa tutta una carrellata veramente trattando un po' di tutto, però stranamente in maniera veramente semplice alla portata di tutti. Questo è uno dei primissimi testi che ho letto sull'acquisizione del linguaggio e la linguistica. E realmente diciamo che può diventare, questo e Grafiscalise sono un po' le basi. Grafiscalise, ragazzi. Cioè sono quelli alla portata di tutti, anche sono adatti anche a, per chi inizia da veramente da zero. O per chi davvero se lo vuole leggere ora sotto l'ombrellone, no, perché c'è un ghiaccio fuori che fa paura, però chi davvero se lo vuole leggere nel tempo libero per studiare, per avere un approccio iniziale a quella che è una materia davvero vastissima, complicata, però bella e soprattutto anche quotidiana. Ecco, diciamo che chi vuole iniziare può iniziare da qui, sì. E quindi abbiamo parlato di due donne, Ada Fonzi e Maria Teresa Guasti. Io sono Nina e qui sì. C'è la Nenia, quindi tutte grandi donne, e abbiamo il pezzone. Accanto a una grande donna c'è sempre accanto un'altra grande donna. Esatto, dicevano mettiamola i saggi, così. Gli antichi, sì, no? Sì. Per cui abbiamo un pezzone da farvi sentire dedicato a tutte le donne. Sì, sì, sì, sì. È sì, la mitica... Questo sì, va fatto. Va fatto, vai. Va fatto, sentite forza. Che meraviglia. Ci risiamo. Mi piacerebbe avere un telefonino che manda messaggini con tantissimi caratteri. Così potrei scriverti ti amo con un milione di O e verrebbe presto a poco così. Ti amo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Anche in quei giorni non mi chiedermi di farti lo stufato quando torni, non mi chiedermi il teorema di Pitagora, non ho la licenza media in prima, mi bocciarono, non mi chiedermi di avere gambe lisce come seta, la ricrescita è una piaga e non mi bastano alla meta, ci vorrebbe un diserbante dedicato, io ce l'ho, spero solo che rispetti il mio pH. Confettini perfetti, girlfriend. Oh, quando uno è naturale, naturale. Tra l'altro questo motivetto niente male. Non mi chiedermi un orgasmo che non so come si scrive. Non mi chiedermi se ho sexy più la fronte o le gengive. Non mi chiedermi di coniugarti i verbi, non li so. Se li avrei saputi in molte li imparavo. Non mi chiedermi di amarti con le tecniche orientali. Non cercare di sorprendermi all'incrocio dei miei pali. Non mi chiedermi di rivelarti dove è il punto G. Con il mio alfabeto arrivo fino a F. Girlfriend, belle ragazze collocate perfette. Noi siamo top e dalle vedute strette. Girlfriend, sinceramente non capisco chi ci piace, ma nei nostri playback ci mettiamo l'anima. Prototipo di donna libera, tutta acqua e sapone, non ti dai nemmeno un'aria. Tu così lucida ed estera, tu che sei più semplice di un mosaico con una tessera. Tu hai più colori di una gerbera, Venere berbera. Tu genuina come il Barbera, tu che non mi dai mai l'idea d'aver la minima idea di quel che dai. Se saprai parlare senza farti diventare rosso, se dovrei vestire i panni senza toglierli di dosso, se potrei dire cose meno imbarazzanti le direi, ma non sarei più gradita in una confettini perfetti. Girlfriend, oh, quando uno è naturale, naturale. Girlfriend, tra l'altro questo motivetto niente male. Girlfriend, belle ragazze collocate perfette. Girlfriend, gagliarde top e dalle vedute strette. Girlfriend, sinceramente non capisco chi ci piace, ma girlfriend, nei nostri playback ci mettiamo l'anima. E noi siamo, cosa che diceva? Top dalle vedute, sì, dalle vedute strette. Ecco, attenzione per cui, siamo soprattutto top. Dopodiché, esatto. Le vedute non ci abbiano anche troppo strette, dai. Ma soprattutto siamo top. Sì, e soprattutto, vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Sarà bene chiudere l'anno in non bellezza. Troppo in bellezza. Pa, pa, pa, pa. No. Dimmi un pochino. Allora, abbiamo detto della prima puntata, abbiamo trattato gli orrori, giusto? Gli orrori grammaticali, quelli ve li risparmiamo, perché ormai davvero il web è pieno di perculate. Di grammar nazi. Grammar nazi. Non riesco più a dire. Di grammar nazi. Poi abbiamo parlato dell'inglese, quindi del rapporto maccheronico che l'italiano ha ancora con l'inglese e di tutte le tipologie di prestiti che abbiamo avuto noi nella nostra lingua. Quindi... Poi abbiamo parlato tantissimo dei dialetti. Ah, abbiamo fatto due questo. O tre addirittura puntate. Due puntate piene, quelle proprio da 69 esatto. minuti, virgola 3. 36, periodico, col 6 periodico. Sì, sì, sì, sì, sì. E... Lingue slave. Lingue slave, abbiamo la mitica puntata delle lingue slave. Con una, non so se andate ad ascoltarvi il podcast, io vi chiedo scusa ancora per la musica che abbiamo proposto, ma no, ma quella, la gente è contenta. Secondo me quei pochi che ci ascoltano solo per solo la musica per di merda. Solo per le trashate. Comunque, ragazzi, feticisti. Esatto, feticisti delle cover di Neck cantate da sì. da questi russi improponibili. Però ci è arrivata un'altra mail, miracolosamente, questa un po' di tempo fa, che ci chiedeva ancora qualche aneddoto sui dialetti. Ci chiedevano sì. Perché non l'abbiamo saltato l'abruzzese? Se l'abruzzese no, l'abbiamo saltato. Sul friulano e tutta la parte un po'... Super nordica, super quella nordica. Meravigliosa. Cosa abbiamo parlato? Del sardo tantissimo, abbiamo parlato del toscano tantissimo, abbiamo parlato un po' dell'emiliano e anche il friulano è una lingua parecchio importante perché il ladino è... il ladino che non è friulano, lo sappiamo, è una lingua di minoranza ma rasenta quella zona. Per cui oggi... Cosa facciamo? Cosa gli facciamo sentire? Che non è un uncut. Allora, abbiamo due possibilità. Io opterei innanzitutto per il grande quizzone, perché ho un pezzo che vorrei mandare come grande quizzone. Mm-hmm. Eccolo. Voi. E come sempre a postawombat@insiberia.net ci dovrete scrivere chi parla, cioè chi nome, cognome, codice fiscale. No, provenienza, quale dialetto, provenienza geografica dettagliata nel caso sappiate, butta almeno, via. Almeno, se non proprio provinciale, almeno semiregionale. Esatto, sì, dai. E chiaramente significato a quel punto. Quello là, quello numerico. Sentiamo un po'. Sì, carattere, così potrai scriverti ti amo. Eh no, e c'è partito un altro pezzo. Ecco. Pimentano cudus otus è fresco, peperoncino nel culo degli altri è rinfresco. Ah, abbiamo mandato la versione con la traduzione. Questa ve la facciamo risentire, ve la facciamo risentire perché è cascato un libro, sentite i tomi che abbiamo qui. Terremoto. Vabbè, facciamo sentire questa già tradotta, ciccia. Okay, pronti? Un po'. Pimentano cudus otus è fresco. Peperoncino nel culo degli altri è rinfresco. Figlio di pesci, pescigno è. Figlio di pesci, pescino è. Pescigno è. Avete capito? Che bello. Facciamo risentire. Gli altri è rinfresco. Ok. Figlio di pesci, pescigno è. Cosa vorrà figlio dire? Figlio di pesci, pescigno è. Vediamo. E poi ci dice tutte le soluzioni? Sì. Vabbè, ma va bene, dai, sì. Se torto non ten jeito, muore torto. Il legno che nasce torto non c'è niente da fare, muore torto. Avete capito? Proviamo a ribeccarlo proprio nel frammento. Un figlio di un pesce non può essere che un pesce. Ok, ma? Un pau che nasce torto non ten jeito, muore torto. Sembra portoghese. Sì, è vero. Che cos'è? Che dialetto è? Non il legno dire. Che nasce torto non c'è niente da fare, muore torto. Però hai notato... No, non posso dire neanche questo. Notate la pronuncia di questo signore quando parla in italiano. La traducerai. Cemut le bighe, cialde ma flape. Monatise. Caso diga, ciavite mulo. Pimentano cudus otus è fresco. Ok, ma ragazzi, io con questo Monatese mi è venuto in mente mia nonna. No, la ma flape! è veramente tutte le bighe cialde ma flape monatise caso di ga ciavite mulo bella, bellissima. Monatise. Quindi vogliamo, a questo punto la traduzione sono degli ultimi due pezzi. Esatto. Avete anche un po' di aiutini via via. E chiaramente la provenienza. La provenienza, che non è così difficile. Questo no, Mona, infatti. Dai, è un grossissimo suggerimento, Mona. No, ma non, siamo troppo buoni come Natale. Che cosa dice la nostra agenda? Sentiamo un po', perché siamo arrivati alla fine della puntata, ridendo e scherzando. Mi sto cazzeggiando qua e là senza fare una minchia. Questo non era proprio brutto da dire in radio, ma ormai l'ho detto. Venerdì 20... Ah no, guarda, stasera alla Polveriera c'è un aperitivo di autofinanziamento per No Borders. Non so di più, quindi orario, non so niente. Però, insomma, internet sono le 20:41, correte. Secondo me si fate in tempo. Poi c'è venerdì 23 dicembre al Next Emerson. Wow, quante cose. Dalle 19:30 cena e presentazione della Scarceranda 2017. Dalle 22... scusate, l'agenda scarcerando, diciamo che cos'è? È l'agenda anticarceraria a cura di Radio Onda Rossa. È molto carina, io vi consiglio di venire a acquistarne una copia perché è veramente bellina, bellina. Bellina, bellina. E dalle 22 invece in NEM, nuove esperienze retico-musicali, un'orchestra bellissima, sono bravissimi. Un'orchestra improvvisata, mutante, dal 72. Quindi sono quasi 45 anni che sì, suonano. Sì, ma loro sono dei personaggi fantastici. Correte al Next Emerson in via di Bellagio, ragazzi, perché questo concerto è davvero bellissimo. Sì, sono tantissimi, fanno tutto da sé, cioè, non, sono il loro stesso pubblico. Ma io e la Nania molto probabilmente ci andremo. Se volete conoscere l'Accademia della Brusca dal vivo, venite a vederci. Cercate di capire chi siamo tra la folla. Ecco. E poi che c'è? Alla Polveriera un altro aperitivo, Aperitrash, Benefit Spese Legali, Iniziativa Antagonista Metropolitana, sempre venerdì 23. Sabato 24 abbiamo un'altra serata al Next Emerson dalle 22, ma non vi posso dare ulteriori informazioni. Ci saranno probabilmente concerti e birrette. Per e sicuramente cui... cose fighe. Birrette e cose fighe, per cui... Si sa. Per la vigilia di Natale, se non sapete... Sono gli anti-Natale. Esatto. Che è sempre saggio fare. Poi Natale con i tuoi, Pasqua... Capodanno come cazzo vuoi. Pasqua con chi vuoi. Pasqua con chi vuoi. A noi anche il Natale ci va bene uguale. E... Ma io voglio dormire, chi se ne frega del Natale. Esattamente. Bene. Detto ciò, allora, proprio così, la butto lì, la butto lì. Randellà, brutto colpo inferto all'avversario ho ricevuto, anche una brutta caduta. Era così, giusto per ricordarvi che ho ancora qui sott'occhio il mio vocabolario del Stefano Rosigalli. Randellà. Bello, visto. Bene. A caso. Siamo bene. Arrivate alla fine di questa... nona e ultima puntata del 2017 dell'Accademia della Brusca. No, in realtà ce n'è un'altra. Ma il 29, ah giusto, no, il 29 non ci siamo, ci dispiace, è vero, mi ero confusa. Torneremo il 4 di gennaio o il 5? 4 o 5, sì. Belle, pimpante, riposate, con sicuramente un sacco di argomenti soprattutto nuovi. Belle. Bellissime. Poi su pimpante e riposate ci lavoreremo. Posso dirlo, non carichiamo il podcast di questa puntata, perché tanto è un ripassone. È un ripassone. Che scrivete. Vi va? Vi va? Se vi va, ce lo scrivete a posta wombat@siberia.net. Ce lo dite su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, o su Facebook, cercate radio-wombat-firenze e basta. Un sondaggione. Che vinca sì, il no, qualcosa, il forse... Dopo il colpo di stato di Radio Wombat, questa volta avremo il referendum di Radio Wombat. Anche col pugno sulla scrivania. L'altro giorno spiegava a una bambina che cos'è un colpo di stato. Ma cos'è il colpo di stato? Sicché le dico, se entra in un palazzo con le armi e si dice... Questo è mio, ora qui comando io e comando un po' su tutti. L'ha capito bene. Perfettamente. Quello che abbiamo fatto lunedì. Perfetto. L'ha capito. Bambina. Benissimo, ok. Un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno aiutato in questi mesi a mettere su la regia, a tutti i tecnici, a tutte le regie di Wombat presenti sul territorio, a tutti gli amici che ci ascoltano, a quelli che non ci ascoltano perché non gliene frega un cazzo, ma in realtà sono solidali con l'idea. Salutiamo tutte le trasmissioni di Wombat. Notodate, la super... quante trasmissioni fa ormai una. Bloody Marion? Due. Qui, secondo me, entro marzo altre tre. Esatto, il palinsesto sarà un colpo di stato vero e proprio, sì. Un'oligarchia. Sì, sì, a questo punto, sì. Una monarchia o un'oligarchia di Bloody Marion. Tanti saluti a Marion. Che ci ascolterà col gattino ammalato a casa, povero. Miu, e miu, chiudiamo miu. Con un bel pezzo. Aspetta, toche. Vorrei salutare, ma anche dire che a breve comparirà una nuova trasmissione di Soul. Già. Sì. Già. E poi un saluto a tutti gli altri che la fanno già, sono già ottimamente rodati, sì. Fuoco sì, alle già. Polveri. La revancia, che c'è? La revancia. Mi sta scappando qualcosa dalla memoria. Le siepi, i gini. E abbiamo tutto il prog dall'A alla Z. Lo so, non lo volevo nominare. Sta diventando il Macbeth della radio. Macbeth. Sangue. Proc. Uno e prog due. Sembrava un po' la porta, Saggezza. Oikos. Significa saggezza. Senti, ma come inizierà questo 2017? Che ci sarà di nuovo? Su. Nella nuova puntata che andrete a sentire nel 2017 ci sarà il gioco delle coppie. Arrivata Bloody Mary. Quindi anno prossimo giochino nuovo, il gioco delle coppie, ci addentreremo molto di più su quello che è il discorso della linguistica vera e propria, diventerete bravissimi nel fare i sudoku linguistici che sono gli alberi. Che si chiamano così, non sono alberi veri, sono degli schemi. E sti cazzi! Bene, finita, finiamo qui. Abbiamo finito per oggi. Ciao, buone feste! Buon anno! Buona fine, buon principio, buona Befana! E soprattutto... No, Befana no, non si arriva prima della Befana. Non si apre la pista. Apriamo la Befana pista. Non è il 6 gennaio. Sì, allora sì, ci vediamo noi prima. Ci vediamo compariremo prima. E chiudiamo con il nostro ultimo pezzo. Mettiamo... Sì, un pezzo... No, basta trashate, ti prego. Basta trashate. Sì. Facciamo un pezzo anche serio. Se non mettendo il podcast possiamo permetterci di mettere un po' di trashate in più. Ma chiudiamo un po' con... No, metti quello che vuoi, io non ci metto bocca né dito. Mettiamo un pezzo che abbiamo già passato. Che parla di toscano, visto che si parlava sì, di dai, Landella. Sì, dai, è bello, merita. Su. Ci mettiamo il nostro caro amico Mille Lemmi. Sentite un po'. Che non era lui. Ora sì. Sì, Ciccio Tetulè. Ciao a tutti. Firenze, Nazzi, e che si mangia qui? Lampredotto Night and Day, oh. Il tipo di chiosco le ha posto, non lesina sui brode, conosce mi gusto, mi stronco una vaschetta a mezzo coitaretta, regale, spannocchia, la nostra razione le doppia, questa là una cosa per gente schizzinosa, originale fiorentino come il lampredotto nippanino, da Gavinana allo Smanoro la morale è sempre quella, si pranza con la tripa e le budella, lo prendo completo come ogni intortato, sale, pepe, salsa verde, piccante e bagnato, mi faccio un assaggio di quello insimino, quel vino rosso a calesco da pranzo briaco, questa là una cosa per gente schizzinosa, finale fiorentino come lampredotto nippanino, e dalle cure all'isolotto la morale è sempre quella, si pranza con la tripa e le budella. Il rituale si ripete a qualsiasi ora. Grazie bovino per le tue interiora. Il barrocciaio non lascia niente a caso. Sui quattro quarti lodiamo le arti del tuo stomaco a bomaso. Questa là non è cosa peggente schizzinosa. Finale fiorentino come Lampredotto Nippanino. E per la gente di Firenze la morale è sempre quella. Si pranza con la trippa e le budelle. Mangiare lesso fa bene al sesso.